Il viaggio mistico e il misterioso potere del sesso. La ricerca mistica, la ricerca di quel che i mistici chiamano talvolta l'assoluto, è a quanto pare un'esperienza squisitamente umana. E tale è anche lo stato mistico e statico che pare comunichi a quanti lo esperiscono un senso di indescrivibile pace interiore e beatitudine. E dava accesso a poteri taumaturgici, assieme a un senso di unità con quello che attraverso le varie epoche i mistici hanno chiamato amore divino. Molte sono le vie che conducono allo stato mistico e statico. L'arte del Paleolitico, del Neolitico e della Creta Minoica suggerisce che probabilmente molto presto nella cultura occidentale la danza fu usata per raggiungere stati di trance mistici, o come talvolta oggi li chiamiamo sciamanici. Dai tempi antichi si è fatto ricorso alla meditazione, agli esercizi di respirazione, agli allucinogeni, al digiuno e alla privazione del sonno per indurre stati di coscienza alterati o intensificati. E come abbiamo visto, esistono prove inconfutabili che l'estasi sessuale fu un tempo un importante accesso agli stati mistici o estatici. Questa antica percezione del sesso, che implica quello che oggi chiamiamo uno stato di coscienza alterato e dell'unione sessuale della femmina e del maschio, quale possibile via verso la beatitudine spirituale e l'illuminazione, è tuttora evidente in molte tradizioni religiose orientali. Per esempio, Yin e Yang sono, nelle tradizioni mistiche cinesi, i simboli del femminile e del maschile. E sebbene per molti versi la filosofia e la religione cinesi elevino il maschio al di sopra della femmina, attribuendo il negativo e il passivo al femminile e l'attivo e il positivo al maschile, negli scritti mistici cinesi, e in particolare nella tradizione taoista, spesso l'accento è ancora posto sull'armonioso equilibrio tra i due. Quindi, secondo alcuni saggi orientali, l'arcobaleno celeste rappresenta l'unione fra il principio femminile e il principio maschile, un ponte che unisce il cielo e la terra. I cinesi parlano anche di Tai Chi, che unisce Yin e Yang. E alcuni saggi cinesi insegnano specificatamente che il Tai Chi è una forza sessuale associata al femminile che, come nel culto della dea preistorica, infonde energia e illumina la vita intera. La traccia più evidente, seppure stranamente ignorata, del matrimonio sacro nella tradizione orientale è un rito giapponese che occupò le prime pagine dei giornali di tutto il mondo nel 1990, in occasione dell'incoronazione del nuovo imperatore del Giappone. All'epoca la stampa riportò che in tutto il Giappone infogliava un'accesa controversia su una cerimonia segreta, che a detta degli studiosi aveva origine in tempi preistorici. Non fu chiaro dai servizi giornalistici se il nuovo imperatore aveva davvero un rapporto sessuale, come parte delle cerimonie per l'incoronazione, con una giovane donna, che secondo quegli articoli veniva condotta in un tempio in cui aveva luogo la cerimonia. Oppure se, come informò la Imperial Household Agency, il letto nel tempio fu usato come il giaciglio per il riposo della Dea del Sole, ma l'imperatrice non lo tocca mai. Era soltanto chiaro che un letto di stuoie e un copriletto venivano portati nel luogo più riposto e sacro del tempio in cui l'antico rito si svolgeva, per far sì che il nuovo imperatore potesse comunicare in modo simbolicamente sessuale con lo spirito della Dea del Sole. E fu anche chiaro che ancora nel 1990, nel moderno Giappone, il matrimonio sacro con la dea era, come negli inni di Inanna, ritenuto necessario per legittimare il potere del nuovo sovrano maschio. Infatti, nella tradizione shintoista era questa unione che conferiva status divino all'imperatore. Inoltre, secondo gli studiosi giapponesi, era una cerimonia che trovava origine in antiche feste del raccolto, in cui, come durante il Paleolitico e il Neolitico in Europa, l'unione del principio femminile e del principio maschile era collegata alla fertilità della terra. In molti insegnamenti mistici induisti sulla natura atta a infondere energia dell'unione tra il principio femminile e il principio maschile, a quanto sembra sono pure sopravvivenze di antichissimi miti e riti. Di particolare interesse sono gli insegnamenti induisti tantrici, in cui, ben lungi dall'essere passiva, la sessualità femminile viene ancora venerata quale principio energetico dell'universo. In particolare, significativa è l'opinione che lo yoga tantrico sia emerso in India intorno alla metà dell'undicesimo secolo, quale movimento di carattere agrario che, come scrive Georg Fürstein in Yoga, The Technology of Ecstasy, veniva dalle caste al fondo della piramide sociale in India. Le stesse caste in cui i conquistatori indoeuropei relegavano la più antica popolazione indiana dedita al culto della dea. Se esaminiamo lo yoga tantrico nel suo più ampio contesto storico, ci rendiamo conto che non fu un caso se il tantrismo nacque in queste caste. Per cominciare, il tantrismo si allontana profondamente dagli aspetti ariani degli insegnamenti vedici, secondo cui il fine ultimo dell'esistenza umana è la trascendenza di questo regno terrestre, insegnamento quanto mai adatto per impedire a un popolo oppresso di cercare almeno di cambiare questa situazione terrena. Fatto quanto mai significativo, come scrive Feuerstein, lo yoga tantrico introdusse un insieme di strumenti, miti e riti che fino a quel punto erano stati esclusi dal repertorio spirituale dell'induismo, e in particolare il culto della dea e la sessualità. Dunque, molto probabilmente, lo yoga tantrico fu una reviviscenza di pratiche e credenze molto più antiche, sebbene già ricoperte da un pesante strato di elementi acquisiti dal modello della dominanza. Come scrive Feuerstein, la grande formula tantrica, fondamentale anche per il buddismo Mahayana, è Samsara equivale a Nirvana, come a dire che il mondo fenomenico o condizionale è coessenziale al trascendentale. Pertanto gli adepti tantrici reclamavano per il processo spirituale tutti quegli aspetti dell'esistenza che le tradizioni principali escludevano con la rinuncia, la sessualità, il corpo e l'universo fisico in genere. E vi perverranno, per riprendere il linguaggio junghiano di Feuerstein, ristabilendo l'anima, il principio femminile, chiamato Shakti nell'induismo. È illustrato nell'iconografia da dee quali Kali, Durga, Parvati, Sita, Radha e centinaia di altre divinità, o semplicemente come Devi, la risplendente, la dea. In altri termini, gli insegnamenti e le pratiche mistiche tantriche riportarono la sessualità, il corpo umano e perfino l'antica dea al loro posto centrale, sia nel mito sia nel rituale. Il loro simbolo, per l'unione della beatitudine spirituale trascendentale e del piacere immanente o corporale, era l'amplesso estatico della femmina e del maschio, di cui si ha un esempio nella sacra unione sessuale tra la dea Shakti e il dio Shiva. Ma sebbene il tantrismo insegnasse che Shiva senza Shakti è morto, cioè svuotato dell'energia creativa che dà la vita, nello yoga tantrico già troviamo una pratica incentrata sul maschio. E negli scritti tantrici, quasi tutti fino a poco tempo fa redatti da uomini, l'energia sessuale femminile è descritta dal punto di vista maschile, con la donna che svolge un ruolo strumentale, in questo senso secondario, addirittura periferico, nell'illuminazione spirituale che il maschio raggiunge attraverso il sesso. In contrasto con alcuni altri insegnamenti induisti, il tantrismo idealizza più che svilire la sessualità femminile, ma nel contempo ancora innalza l'esperienza spirituale maschile al di sopra sia della donna inferiore sia del regno inferiore del corpo o della carne. Per lo più le istruzioni che contengono sono dirette all'uomo che per nessun motivo deve scaricare il seme, ma piuttosto trattenerlo per sé. Per le donne, il sesso così praticato ha il vantaggio di essere uno strumento per il controllo delle nascite. Ma il motivo per cui gli scritti tantrici consigliano di adottare questa pratica non è solamente incentrato sul maschio. Infatti, se il maschio che vi ricorre sembra indulgere al piacere sensuale, boga, per citare Feuerstein, in realtà coltiva la beatitudine trascendentale, ananda. Nello yoga tantrico, l'unione sessuale della donna e dell'uomo rimane comunque un rito sacro, un sentiero verso una superiore consapevolezza, verso un senso di unità o connessione con il divino. Come nelle tradizioni preistoriche, da noi prese in esame, è l'energia femminile o della dea, la forza Kundalini Shakti a illuminare i cuori, le menti e le anime di donne e uomini. Simili evidenti contraddizioni diventano comprensibili se si tiene conto della sovrapposizione di elementi della dominanza su più antiche tradizioni della partnership. D'altro canto, gli scritti tantrici conservano l'antico legame tra il sensuale e lo spirituale, che esprimono una visione secondo la quale l'unione sessuale della femmina e del maschio è il principio animatore della vita su questa terra e secondo cui Quando il fondamentale equilibrio tra femmina e maschio va perduto, si perde anche l'equilibrio in tutti gli aspetti della nostra esistenza personale, sociale e spirituale. D'altro canto, questi scritti mancano essi stessi di equilibrio. Insegnano infatti che il corporale o l'erotico, un fondamento dell'antico matrimonio sacro, è di ordine inferiore rispetto a quanto è distaccato e lontano dal mondo. E affermano implicitamente che sebbene la donna o yogini, come l'antica dea, sia per l'iniziato o yogi, ancora la fonte divina della beatitudine spirituale, lei resta comunque inferiore all'uomo. Dal matrimonio sacro della dea allo sposalizio mistico con Dio. In conformità con le necessità dei sistemi della dominanza, questo assunto dell'inferiorità della donna pervade molti scritti mistici orientali e occidentali. Per esempio, benché molti mistici sufi usino immagini erotiche e paragonino il femminile alla beatitudine spirituale, si pongono comunque all'interno di una più ampia struttura islamica, in cui le donne sono considerate inferiori e la sessualità femminile è spesso definita un pericolo per gli uomini. Contraddizioni interne dello stesso tipo caratterizzano anche la maggior parte degli scritti mistici giudaico-cristiani. In realtà, come nella tradizione musulmana, il fondamento logico della supremazia maschile è ancora più estremo che nelle religioni politeistiche della dominanza, perché in queste religioni monoteistiche la femmina è privata di qualsiasi potere divino, presentato unicamente in forma maschile. Eppure, a dispetto di una revisione tanto radicale dei miti, come già abbiamo visto, restano nella Bibbia molte tracce della dea e del suo matrimonio sacro, a conferma delle attestazioni archeologiche che il culto della dea, accompagnato dal sesso sacrale, continuò a fiorire a Canaan proprio negli anni in cui l'Antico Testamento veniva assunto quale unico testo religioso sanzionato ufficialmente. Per esempio, i profeti ebrei costantemente esortano il loro popolo a non tornare al culto della regina del cielo, prendendosela con la prostituta di Babilonia e le peccaminose figlie di Sion, il che indirettamente conferma che il matrimonio sacro era ancora un rito diffuso. Inoltre, la venerazione cristiana della Vergine Maria è direttamente riconducibile all'antico culto della dea. Ciò vale per parecchi noti santi cattolici, poiché è alla cooptazione da parte della Chiesa di precedenti divinità pagane che molti santi cristiani devono la loro origine. Un esempio ben documentato è la famosa santa irlandese Brigida, che doveva la sua grande popolarità al fatto di essere stata un tempo l'omonima potente dea irlandese. E un esempio ancora più stupefacente e radicale di come questo processo di cooptazione è servito a sovrapporre gradualmente elementi del modello della dominanza a precedenti tradizioni sul modello della partnership, è quanto è accaduto alla dea greca Demetra. Come prima misura, l'imperatore bizantino Teodosio I emanò nel 389 un editto che proibiva il culto di tutte le divinità pagane e imponeva quello cristiano del padre e del figlio. Ma le popolazioni della Grecia continuarono a invocare Demetra, la dea dell'agricoltura, dell'orzo e del frumento, diventata Santa Demetra, patrona dell'agricoltura. Dopo qualche tempo, Santa Demetra subì una metamorfosi ancora più sconvolgente. Diventò infatti San Demetrio. In altri termini, per soddisfare le necessità del nuovo ordine sociale e di conseguenza anche religioso, questa importante divinità femminile fu prima ridotta dallo status divino allo stato di santità, sotto un dio maschio onnipotente, e poi, come se ciò non bastasse, subì un'ulteriore trasformazione, diventando di sesso maschile. Che questa trasformazione da femmina potente a maschio potente fosse un normale espediente usato nelle revisioni dei miti, risulta evidente anche negli scritti mistici ebraici. Per esempio, la Yin, che nel misticismo cabalistico ebraico rappresentava il vuoto creativo, come rileva Israel Regardi, in Egitto era la dea Nut, la regina dello spazio assoluto e il nudo splendore dell'azzurro cielo notturno, dai cui capezzoli zampillava il latte delle stelle, la polvere cosmica. Ma nella Kabbalah la Yin è maschio. Il cambiamento di sesso, accompagnato dall'appropriarsi maschile di poteri prima associati a una divinità femminile, era ovviamente uno strumento molto efficace per sostenere il potere del maschio. In effetti esiste forse qualcosa di meglio per giustificare il predominio maschile del principio biblico secondo cui l'uomo Deriva il controllo sulla donna da un padre celeste, Dio Signore, a immagine e somiglianza del quale è stato creato? Ed esiste forse un fondamento logico migliore per escludere le donne dal sacerdozio e quindi da posizioni di autorità morale, e cosa che spesso è la stessa legale, dell'associare il potere divino esclusivamente all'uomo, come fanno i giudaico-cristiani e i musulmani? Ma da questa mascolinizzazione totale del divino deriva un ulteriore risultato, cioè una nuova versione assai strana del matrimonio sacro, che veniva sempre più spesso chiamato sposalizio mistico. Una versione che, se non fossimo così fortemente condizionati ad accettare tutto quanto ci raccontano le autorità religiose, ci colpirebbe immediatamente per la sua assurdità manifesta. Perché cominciamo a rilevare che non soltanto la partner femminile del matrimonio sacro è diventata secondaria o periferica, ma che come la dea è stata completamente cancellata. Come gran parte delle tradizioni mistiche orientali, gli scritti mistici ebraici, cristiani e musulmani contengono ancora un linguaggio erotico e immagini femminili, sebbene più spesso che in quelli orientali le allusioni siano di solito avvolte in simboli esoterici, formule matematiche e codici metafisici indecifrabili. Come molti scritti mistici orientali, quelli ebraici, cristiani e musulmani tendono a relegare il corpo su di un piano inferiore, tanto che nel misticismo cristiano il corpo è spesso considerato intrinsecamente vile e indegno. E se il femminile talvolta è ancora idealizzato in astratto, come la Shekinah nel misticismo cabalistico e ebraico o la Vergine Maria nel cristianesimo, la donna, in particolare la sessualità femminile, è spesso presentata come pericolo per l'uomo. Come se non bastasse, in questi scritti troviamo che la centralità maschile ha fatto un grosso passo avanti. Infatti, al posto di un matrimonio sacro tra una femmina e un maschio, cominciamo a trovare uno sposalizio mistico tra un uomo e il suo dio. Così, invece di essere l'unione del principio femminile e del principio maschile, nella Kabbalah e in altri scritti mistici ebraici, così come persino in alcuni passaggi dell'Antico Testamento, il matrimonio sacro unisce una divinità maschile ai suoi fedeli. Per giunta è un'unione alquanto ineguale, come erano in realtà diventati i matrimoni, perché simboleggia ora il legame tra una divinità maschile onnipotente Dio e una sposa o una vergine, come il popolo eletto di Dio, è spesso chiamato non soltanto nella Kabbalah, ma anche nell'Antico Testamento, per esempio in Isaia 37,22, Geremia 31,4 e 21 e Amos 5,2. E come già abbiamo visto, è stata questa l'interpretazione data da molti studiosi delle religioni dell'eroticissimo Cantico dei Cantici, sebbene i protagonisti siano chiaramente una donna e un uomo. Del pari, ricorrendo all'immagine del matrimonio sacro per legittimare il potere assoluto dei principi della Chiesa su tutti i cristiani, negli scritti cattolici la Chiesa diventa la sposa di Cristo. E persino dopo la Riforma, il linguaggio del matrimonio sacro si insinua negli scritti di Martin Lutero, che lo usa per sostenere le istituzioni religiose e le relative gerarchie unicamente maschili. Nella sua opera fondamentale De Libertate Christiana, Lutero scrive che la fede unisce l'anima a Cristo come una sposa al suo sposo, ovvero, come si espresse in un successivo sermone, 1537, tra tutte le pittoresche allegorie che Dio ci ha dato per raffigurare il regno di Cristo, un'immagine deliziosa, amorevole, è il paragone della cristianità o della fede cristiana a uno sposalizio, a un matrimonio santo in cui Dio sceglie per il figlio suo una chiesa da prendere in sposa. Questo concetto di un'entità divina che sceglie la gerarchia ecclesiastica come partner nel patrimonio è ovviamente una versione burocratica della pratica della dominanza, che già abbiamo intravisto negli inni sumeri di Inanna. L'uso dell'antico matrimonio sacro come strumento per legittimare il potere degli uomini che governano in nome della divinità. Con la differenza che ora non viene soltanto legittimata tutta una gerarchia ecclesiastica, ma addirittura l'unione si ha tra una sposa e uno sposo entrambi maschi. Uomini ambiziosi come Lutero e altri capi di istituzioni religiose usarono la metafora dello sposalizio mistico per simboleggiare l'unione della loro divinità con il suo gregge, ovvero, più propriamente dovrei dire, il loro gregge. Perché coloro che non obbedivano ciecamente come pecore a questi uomini lo facevano a loro rischio e pericolo. Per contro, nella maggior parte degli scritti mistici cristiani, lo sposalizio sacro sembra assumere una funzione diversa. Di solito è l'unione statica tra un mistico e la divinità, ma siccome per la maggior parte gli scritti mistici giunti fino a noi sono opera di uomini, ecco che si tratta di solito dell'unione tra un suddito maschio e un sovrano maschio, con il mistico, al pari dell'istituzione religiosa controllata da maschi, che assume il ruolo subordinato di sposa, mentre Dio onnipotente è quello dominante di sposo. In altri termini, ci troviamo di fronte a un'unione omosessuale, che risulta ancora più strana se si pensa che per la maggior parte gli insegnamenti mistici cristiani sono complementi di religioni che denunciano l'omosessualità come un naturale abominio. E mentre il linguaggio che descrive lo sposalizio mistico è spesso fortemente erotico, il suo intento chiaramente non è di elevare il sessuale o il corporale dalla sua posizione subordinata e disprezzata. Proprio al contrario, come scrisse nell'undicesimo secolo Bernardo di Chiaravalle, considerato talvolta il vero padre del mistero della sposa cristiana, quest'unione avviene solo nello spirito, perché Dio è soltanto spirito e non corpo. Insomma, in molti scritti mistici cristiani finiamo col trovare un'unione tutta maschile, che avviene solamente nella testa degli uomini. La divina domanda di sofferenza e l'estasi del dolore. Bernardo di Chiaravalle scrisse in un'opera in cui nel meridione della Francia e in altre regioni d'Europa i trovatori e altri eretici andavano reintroducendo il culto della dea nella forma che gli storici delle religioni chiamano Mariologia. Nei 2 secoli successivi, le grandi cattedrali d'Europa dedicate a Nostra Signora o Regina dei Cieli, come esplicitamente detto nella splendida cattedrale di Chartres, ancora venivano erette sui siti in cui un tempo era venerata la dea. Non a caso le grandi volte ricordavano l'antica grotta, il santuario che era un grembo femminile. Immagini della Madonna Nera, nera in quanto rappresenta la fertile terra nera o trova le sue radici nella Grande Madre, la dea egizia Iside. Ancora attiravano pellegrini provenienti da tutto il mondo cristiano. Talvolta in templi dedicati a Maria Maddalena, che secondo alcune leggende lasciò la Palestina con un bambino santo, il figlio avuto da Gesù, per il sud della Francia. Ma mentre tali vestigia del culto della dea persistevano, e indubbiamente proprio per questo motivo, la dea spietatamente perseguitava le sette eretiche che ancora credevano nel matrimonio sacro inteso come unione del principio femminile, la grande dea, il principio maschile, il dio Toro. Ancora nel XVIII secolo le donne venivano bruciate sul rogo, in quanto streghe che si univano al diavolo, cioè con una divinità con tanto di zoccoli e corna, oramai demonizzata. A dispetto di tutto ciò, non si poté completamente annientare l'antico matrimonio sacro inteso come unione delle energie erotiche e spirituali femminili e maschili. Durante tutto il Medioevo e anche in seguito, molti, non esclusi monaci e monache dei monasteri medievali, continuarono a credere in questa antica tradizione, con variazioni quanto mai bizzarre. Infatti, nel contesto della cristianità medievale, il matrimonio sacro avrebbe subito un'altra trasformazione radicale. Invece di essere la celebrazione della vita dell'amore, si andò rapidamente trasformando nella celebrazione del dolore della morte. Questa fusione morbosa dello sposalizio mistico con la morte e la sofferenza è un tema ricorrente negli scritti di alcune mistiche medievali. Come fanno tuttora le suore cattoliche, queste donne prendevano i voti in uno sposalizio mistico, grazie al quale diventavano le spose di Cristo. Ma a loro questo matrimonio sacro non portava i piaceri dell'estasi sessuale, ma piuttosto quelle che definivano le estasi del dolore. Così Christina Ebner, monaca del convento di Engelthal, nei pressi di Norimberga, che parlò della sua vita e delle sue visioni in un'operetta intitolata Das Büchlein von der Gnaden Überlast, scrisse che il suo sposo celeste venne a lei come colui che è morto d'amore. Un'altra monaca, sorella Margaret Mary, era, come scrive Sarah Maitland, così determinata nel donare completamente se stessa al Sacro Cuore da incidersi sul petto con un coltello Gesù. Non ancora soddisfatta, bruciò le lettere con una candela accesa. Le sofferenze che alcune di queste donne si inflissero per il loro divino amore sono vividamente descritte da Sarah Maitland in un saggio scritto per un libro intitolato Sex and God. Le donne si flagellavano, digiunavano, si laceravano le carni, baciavano le piaghe delle brosi, si deformavano il volto col vetro, l'acido, le loro mani medesime, scrive. Si costringevano le membra, si incidevano le carni, si trafiggevano, si bruciavano, si tagliavano, si torturavano. Definivano persino il matrimonio sacro con il divino come lo stupro di Cristo e quasi all'unisono dichiaravano che ad avvicinarli soprattutto al loro sposo divino era la sofferenza e come ricompensa per tanto soffrire egli dava l'amore che tanto agognavano. Ma non furono soltanto le donne che, come si scrive in Maitland, violentarono se medesime e si umiliarono in nome dell'amore mistico. Ora, anche per gli uomini lo sposalizio mistico era non soltanto totale sottomissione, già presente nell'Antico Testamento, ma anche sofferenza estatica, sempre per amore di Dio. Sicuramente nelle donne il rapporto sadomasochistico con Dio, come quello descritto da miriade di sante, le cui automutilazioni erano un'offerta d'amore al loro Signore, rispecchia la sottomissione che la Chiesa richiedeva alle donne nel matrimonio, sia temporale sia spirituale, con il Signore, che fosse il capo della famiglia e il capo della Chiesa. Ma un simile rapporto rappresenta anche le relazioni dominante e dominato, ora richieste non soltanto alle donne, ma anche agli uomini. Perché nel Medioevo cristiano anche gli uomini erano tenuti a sottomettersi ai nobiluomini maschi e ai principi della Chiesa, che spesso in nome dell'amore cristiano opprimevano e reprimevano i sudditi. Si spiega così come mai la Chiesa fosse tanto interessata al dolore invece che al piacere, argomento sul quale torneremo nella parte seconda, quando esamineremo più da presso il sesso nella vita e nella religione in Occidente. E si spiega anche come mai, come scrive Maitland, la geografia è cosparsa di individui dei due sessi che paiono aver organizzato la loro intera esistenza attorno alla brama di violenza e di morte, pur di dimostrare la loro devozione. Perché invece di aiutarli a curare questo masochismo patologico di automutilazione e tortura, la Chiesa lo incoraggiava, minimizzando l'importanza di quanto accade sulla terra e invitando ad accettare la sofferenza e persino a ricercarla, come attestato per lo sviluppo spirituale in vita e la ricompensa divina dopo la morte, la Chiesa non soltanto distraeva le menti e le energie dalla ricerca di alternative sociali meno oppressive, ma rafforzava attivamente la presa delle istituzioni della dominanza, a cominciare dall'istituzionalizzazione del predominio maschile. Sicché, quando le donne uguagliavano l'amore, la beatitudine, alla sottomissione, alla sofferenza e vedevano nel martirio la più alta vocazione, ciò era in parte dovuto all'indottrinamento a considerare l'obbedienza più degradante e l'accettazione della sofferenza come la loro massima realizzazione in quanto donne. Ma scaturiva anche dalla glorificazione della sofferenza santa e divina da parte della Chiesa, nonché dall'equivalenza uomini spiritualità e donne carnalità. Come scrive Maitland, una volta che il pensiero dualistico ebbe conquistato un forte ascendente all'interno della cristianità, le donne sempre più vennero associate alla natura e al corpo, mentre gli uomini, felicemente, si identificavano con la mente e lo spirito. Pertanto, se la cristianità doveva flagellare e dominare la corporeità, allora le donne erano la materia ovvia e naturale su cui la Chiesa doveva lavorare e per giunta erano coloro che meritavano i maggiori castighi, poiché, essendo più corporee, erano anche più peccatrici. Tuttavia è importante sottolineare ancora una volta che, contrariamente a quanto di solito si pensa, questo dualismo non è un'idiosincrasia occidentale, né ebbe origine con il cristianesimo. Risale a culti orientali non cristiani molto più antichi, come quello di Zoroastro in Persia, e a filosofi occidentali quali gli stoici greci e romani, i quali pure affermavano che l'uomo e lo spirito sono superiori alla donna e alla natura. Quanto al sesso, sebbene molti greci liberi si abbandonassero al sesso eterosessuale con mogli, concubine e schiave, spesso anche a rapporti omosessuali con giovinetti, Epicuro sostenne, molto prima del cristianesimo, che il sesso è contrario alla buona salute. E Sorano di Efeso, come altri capi della Chiesa cristiana, esaltò perfino le virtù della verginità protratta anche nel matrimonio. Comunque, è con il cristianesimo medievale che la spaccatura tra corpo e spirito e tra donna e uomo raggiunge l'apice, Ed è a quel punto che cominciamo a trovare una visione della sessualità completamente aberrante e insensata, come in Sant'Agostino, secondo il quale l'umanità è dannata in eterno, è condannata a morire con dolore per colpa dell'atto sessuale grazie al quale la nostra specie sopravvive. Inoltre, questa visione del sesso si accompagnò a una visione veramente aberrante della spiritualità, perché non soltanto la Chiesa medievale approvò le donne e gli uomini che cercavano di superare le sofferenze del loro Signore con le sofferenze peggiori, più stravaganti e perverse che si infliggevano, ma spesso arrivò perfino a canonizzarli. L'amoreggiamento con la morte e il bisogno umano d'amore. Data l'attuale idealizzazione di un'età della fede esistita prima che il razionalismo cartesiano e il meccanicismo si incaricassero di troncare la connessione dell'uomo con il divino, ci risulta difficile venire alle prese con le realtà storiche del mondo cristiano medievale. Una volta lo storico delle culture Rattray Taylor lo descrisse come un incrocio tra un ossario e un manicomio. In un certo senso è una definizione azzeccata. Infatti, se osserviamo queste realtà, scopriamo un mondo in cui la violenza è cronica, un mondo di incessanti battaglie tra nobili cavalieri e di sante crociate benedette dalla Chiesa, in cui gli uomini saccheggiano, violentano e devastano non soltanto le città degli infedeli e i ghetti ebraici, ma anche gli insediamenti cristiani, come nel caso dell'infame crociata albigese lanciata da Papa Innocenzo III nel 1209 per annientare i catari, una setta cristiana in cui le donne spesso assumevano il comando e uomini e donne erano tenuti alla non violenza, alla carità e alla castità. È un mondo in cui gli uomini di Dio dichiarano che quella metà dell'umanità, dai cui corpi nasce la vita, è carnale e peccaminosa e le streghe vengono bruciate vive sul rogo per il delitto di curare con la stregoneria, ovvero con la medicina popolare, quindi per lo più con le erbe, invece che ricorrendo a salassi e ad altri rimedi eroici prescritti da medici preparati e autorizzati dalla Chiesa. È un mondo in cui eretici e traditori, che osano mettere in dubbio dogmi assolutisti o l'autorità dispotica, vengono sventrati e squartati, e dove il furto di una pagnotta può essere un delitto capitale, dove la massa della popolazione vive nella miseria e nella sporcizia, mentre le classi governanti ammucchiano oro, argento e altre ricchezze, e dove gli uomini spiritualisti predicano che tutto ciò deve essere accettato con pazienza, nell'attesa di una vita migliore nell'aldilà. Inoltre, insistono, questa vita futura sarà la ricompensa soltanto per quei cristiani che obbediscono ciecamente ai comandi di Dio e non per gli infedeli e i peccatori, tra cui sono purtroppo compresi quasi tutti coloro, maschi o femmine, che cercano un qualche piacere. Perfino la danza, a lungo rifiutata dalla Chiesa come rituale religioso in contrasto con l'epoca pagana, in cui aveva un ruolo fondamentale, presto sarà proibita in assoluto anche da riformatori fondamentalisti come Calvino ed esclusa dunque da qualunque momento della vita quotidiana. In breve, è un mondo da incubo, in cui il dolore non solo è onnipresente, ma viene esaltato, un mondo in cui l'uomo è costantemente esortato a volgersi contro l'uomo, contro la donna e perfino contro se stesso, contro il suo corpo, che come la donna deve essere dominato e controllato, perché sono ormai entrambi considerati vili e disgustosi, come tutto quanto non è di un regno spirituale superiore in questa valle di lacrime. Sicché troviamo pure, e ciò non sorprende affatto, un mondo in cui l'accettazione del dolore e della sofferenza causati dall'amato, che sia una divinità celeste o un cavaliere o una dama terreni, è diventata il massimo dell'erotismo. Infatti, accanto a tutte le spose e gli sposi di Dio in grandi ambasce, troviamo una serie di storie in cui sofferenze e morte sono inestricabilmente intessute con amore e sesso. Sono le grandi storie d'amore dell'eredità occidentale che ancora leggiamo e ammiriamo, le storie di figure archetipe come Tristano, Isotta o Eloise e Abelardo, per le quali bere alla coppa dell'amore significa assicurarsi di tradimento, violenza e/o morte. Come il peccato d'amore carnale presumibilmente condannò Eloisa e Abelardo al fuoco e allo zolfo dell'inferno, oltre a causare la castrazione di Abelardo, l'unione sessuale di Tristano e Isotta è ciò che li condanna a morire, in un ulteriore travisamento ironico dell'antico matrimonio sacro, da cui la leggenda di Tristano e Isotta sembra derivare. Perché nella versione del XIII secolo di Gottfried di Strasburgo ci viene detto che la pozione amorosa, ovvero il simbolo dell'ebbrezza amorosa su cui ruota la storia, era un'espressione della volontà della dea germanica Minne e che l'altare nella sua grotta era un giaciglio consacrato al suo culto. Poiché il soggetto preferito dei poeti è diventato la superiorità della sofferenza spirituale sul piacere carnale, nelle storie d'amore medievali non si celebra la gioia di vivere e di amare, ma come dimostra il lavoro di Denis de Rougemont, si elogiano le gioie dell'attesa, della rinunzia e infine della morte. E tuttavia, persino in questo mondo strutturato sul modello della dominanza, in cui la sofferenza è santa, il piacere è peccato, la donna è del demonio e i santi canonizzati, donne e uomini, cercano la salvezza mortificando attivamente la carne. Donne e uomini ancora trovano il modo di amarsi, di cantare, di ridere, di fare l'amore e anche in questa tormenta di brutalità e morbosità, di regalarsi reciprocamente una certa dose di piacere. È ancora un mondo in cui donne e uomini usano candele, fiori, incenso e musica nei rituali e nei riti sacri, ed è anche un mondo in cui, attraverso una varietà di ricerche mistiche, donne e uomini disperatamente cercano un senso perduto di connessione con le energie amorose, e ancor più specificatamente erotiche, dell'universo mediante successive alterazioni dell'antico matrimonio sacro. Gli alchimisti ricercano l'unione mistica nel laboratorio, scrivono di uno sposalizio chimico che non soltanto trasformerebbe in oro dei metalli vili, ma riunirebbe anche il femminile e il maschile, lo spirituale e il naturale. I cabalisti scrivono della donna e dell'uomo come di un unico corpo e persino definiscono principio creativo la Shekinah, una manifestazione femminile della saggezza divina. Mistici cristiani come Jakob Boehme scrivono dell'estasi spirituale con il linguaggio dell'amore e del simbolismo sessuale, asserendo che la spaccatura tra donna e uomo e tra l'umano e il divino si produsse allorché Adamo ed Eva furono cacciati dal paradiso. Come gli alchimisti che intuirono che il matrimonio sacro non era pura metafisica, e i cabalisti che nei loro manoscritti esoterici preservarono la memoria di una forza creativa femminile nella sua intuizione di un'epoca lontana, prima che l'unità essenziale di donna e uomo e di spirituale e fisico fosse frammentata e distorta. Anche Böhm, in qualche modo, percepì il passaggio nella preistoria da un mondo sul modello della partnership o gilanico a un mondo sul modello della dominanza o androcratico. È una capacità di penetrazione affascinante, perché quella che Böhm intuì non è una verità mistica soltanto, ma, come ci dimostra ora l'archeologia, una verità di fatto. Sicuramente le società arcaiche della nostra preistoria, più orientate sul modello della partnership, non erano ideali, ma erano società in cui le nostre più intime connessioni, la connessione della donna e del bambino attraverso la nascita e della donna e dell'uomo attraverso il sesso, erano ancora comprese nella loro sacralità e nulla avevano di profano. Ed erano società in cui, anche agli albori della civiltà umana, donne e uomini parevano aver colto la saggezza sottesa alle nostre tradizioni mistiche e religiose più esaltate, cioè che solamente attraverso la connessione, attraverso l'amore di una divinità o di un'altra creatura, possiamo realizzare i nostri più alti potenziali. La ricerca di questa saggezza perduta da parte dei mistici, ma anche di donne e uomini attraverso i secoli, è la ricerca della riconnessione con le radici della partnership che ci appartengono. È la ricerca di un modo di correlarsi che è l'antitesi del modo della dominanza, in cui nella realtà, come nel mito, la polarizzazione e la contesa, il conflitto e la separazione, la vittoria e la sconfitta, la dominazione e la sottomissione, lo smembramento e lo scorporamento, la conquista e il controllo, in breve, forza, paura e disgiunzione violenta, sono i temi fondamentali. E l'essenza medesima di questa ricerca, come hanno spesso indicato gli scritti mistici, è la ricerca di uno strumento per risanare quanto fu tanto brutalmente smembrato con il passaggio al mondo della dominanza, la fondamentale connessione erotica e insieme spirituale tra donne e uomini. Ma nessuna iniziazione mistica, nessuna magia alchemica e sicuramente nessuna misura di sofferenza fisica e di umiliazione di sé possono ricucire questa frattura. Per la verità, in un certo senso, queste pratiche non hanno fatto che approfondirla. perché evitano il problema sottostante e non servono a nulla, oppure rafforzano attivamente un modello di spiritualità in cui nel migliore dei casi l'amore sessuale o erotico assieme alle donne è considerato di ordine inferiore e le gerarchie del predominio e violento sono santificate grazie al concetto che persino i poteri che governano il mondo e non soltanto gli uomini che governano la terra si compiacciono dell'umana sofferenza, della servilità e dell'umiliazione di sé degli esseri umani. Ovviamente non si intende dire che il viaggio mistico che esprime il nostro ardente desiderio di unità e di amore non abbia portato consolazione a molte donne e a molti uomini nei lunghi secoli della nostra storia. Ma il punto è che non si tratta di un problema soltanto spirituale, neanche sessuale, bensì sociale. Come abbiamo visto, con il passaggio al modello della dominanza dell'organizzazione sociale e ideologica, la donna e l'uomo e la spiritualità e la natura vennero di fatto nettamente separati e nel corso di quel processo fummo anche separati dalla nostra energia erotica e creativa in cerca di vita e di piacere. Pertanto, solo orientandoci verso un modo di vivere, pensare e amare più gilanico o sul modello della partnership, riusciremo a risanare la frattura. Questo dal punto di vista di una migliore comprensione di dove siamo e dove stiamo andando, è peraltro l'argomento del resto di questo libro.